Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Braleone Pietro? Pietro. O si è confuso qui? Ma no, e non importa niente. Lo vuole riscrivere? Venga qui allora, ecco, lo riscriva da capo. Avete visto le sue mani quando... No, non vi posso dire niente, perché se no mi commuoverei e... Lasciamo stare. Non sono mani di scrittore quelle, ma sono qualcosa di più, qualcosa di meglio. Io devo ringraziare loro, devo ringraziare tutti. È una gioia troppo forte questa, sì, che loro hanno dato a me questa sera, veramente, che hanno dato a tutti noi. No? Secondo me l'evento del giorno e fa molto riflettere sulla nostra qualità nazionale. La fiction sul maestro Alberto Manzi ha avuto un ascolto da record in un momento in cui la RAI si sta ancora leccando le ferite per il Festival di Sanremo. 6.812.000 spettatori con il 24,43% di share, ma soprattutto in contemporanea il voto di fiducia al Premier Renzi in Senato. Tutti i talk show politici, come dice il Sole 24 Ore, sono stati stracciati dalla fiction sul maestro Manzi. Mi piacerebbe capire dal pubblico che mi ascolta esattamente come si spiega questo dato. Il maestro Alberto Manzi è senz'altro una pietra miliare della nostra civilizzazione televisiva. Nel 1960 iniziò questo programma Non è mai troppo tardi, che portò ad alfabetizzare qualcosa come 1,5 milioni di italiani, per far capire a che punto eravamo. Il nostro problema era che la gente non sapeva leggere e non sapeva scrivere, però aveva la televisione, comperava la televisione, poteva avere la televisione in casa. E naturalmente il maestro Manzi doveva dare alcuni rudimenti per insegnare alle persone comunque a poter avere almeno la licenza elementare. Non è mai troppo tardi, era un programma che andava in il pomeriggio. Era diversissima la giornata, l'idea del palinsesto non esisteva, il pomeriggio si stava a casa, le persone stavano a casa nel secondo pomeriggio, non avevano altre attività, erano uscite dal lavoro e guardavano e imparavano a leggere e scrivere. Una fiction che ricorda un modello così lontano dalla contemporaneità, una persona così lontana dai modelli attuali. Il maestro Manzi è il maestro per eccellenza, è colui che ci prende per mano anche da adulti, che ci insegna le chiavi essenziali della comunicazione, quando comunicare non era essere veloce a mandare Twitter o mettere velocemente dei post su Facebook o essere bravissimi a comunicare attraverso WhatsApp. Comunicare significa parlare comunque una lingua comune, dalle Alpi alle piramidi, cosa che non avveniva in Italia. E il maestro Manzi civilmente insegnava agli italiani a parlare l'italiano, a parlare la stessa lingua. Avveniva che un italiano che viveva in una regione rispetto a un'altra regione non riuscissero a parlarsi tra di loro. Cosa ha questo a che fare con l'attualità? Quanto è lontano dall'esperienza contemporanea? Io ricordo il maestro Manzi, ma io ormai ho quasi 60 anni. Ricordo il maestro Manzi perché? Perché era fantastico come lui riuscisse a disegnare alcune cose e far capire alcuni concetti. Nel 1960 io imparavo a leggere e scrivere perché facevo la prima elementare. Il maestro Manzi si rivolgeva agli adulti, ma lo guardavamo anche noi bambini. Cosa ha a che fare questo con quello che sembra il più fulgido e interessante messaggio alla contemporaneità? I giovani al potere, la organizzazione web 2.0 al potere, la social comunicazione al potere, non più un governo fatto di vecchi, un paese governato da vecchi, ma qualcosa di nuovo, svecchiare. Gli italiani in quel momento invece danno la preferenza al maestro Manzi, il simbolo di quanto c'è di più passato, di più antico, di fulgido, intoccabile, inarrivabile come modello, qualcosa che non ha a che fare assolutamente con l'attualità del paese. Come lo spiegate? 800240024. Va benissimo così. Vieni, Giulia. Che succede? Fatemi passare. Ragazzi, ma che fate? Fermi. Che succede? Mi lasci, ma io mi ha detto che puzza, io posso o no? È vero? Eh sì, è vero che puzza. Che merda di vacca. No, fermo, fermo, Paolo, fermo. Fermo, fermo, fermo. Dai. Questo è un piccolo audio preso dalla fiction di Reuno del maestro Manzi. Avrei, ma proprio perché sono rompiscato, a fare qualche piccolo appunto. Negli anni 60 i banchi non erano quelli di formica con le sedie di metallo, quelli sono venuti dopo, almeno 10 anni dopo. Negli anni 60 ancora i banchi erano quelli di legno con il seggiolino alzabile e abbassabile, a blocco unico, a 2-2, gli stessi banchi di prima della guerra. C'era il buco per il calamaio, ancora si usava il cannello e il pennino negli anni 60. Sembra impossibile, ma il salto è stato fantastico. Noi ragazzi del 54 scrivevamo col pennino, noi ragazzi del 54 avevamo nelle nostre classi elementari ancora i manifesti che ci spiegavano di non prendere in mano le bombe residuate della Seconda Guerra Mondiale, con quelle foto con i bambini con le gambe zompate, con le braccia divelte, sanguinosi, perché hanno toccato le bombe. Noi abbiamo avuto la sfumata ultima della guerra nella nostra educazione, nei racconti quotidiani. Noi eravamo i ragazzi i cui genitori erano i veri allievi del maestro Manzi, erano i nostri genitori che non avevano avuto modo di studiare, non hanno fatto tempo, c'era stato un momento di interruzione comunque, e gli italiani imparavano a leggere e scrivere. Ma oggi sono questi gli italiani che guardano la televisione, quindi la televisione generalista è vista soltanto ormai da italiani molto anziani, che si sono entusiasmati nel vedere i modelli più importanti, più nostalgici della loro fanciullezza e giovinezza. O in realtà c'è un bisogno di maestri, abbiamo bisogno di un maestro, cerchiamo in realtà il maestro, qualcuno di rassicurante, qualcuno ci spieghi i dettami della comunicazione, non basata sulla possibilità di moltiplicarci all'infinito, ma semplicemente su alcuni semplici e basilari concetti comuni. E questo 800240024. Io vi scrivo delle parole, riconoscete, vedete, guardate, adesso io le scrivo. Ci metto anche delle lettere che voi non conoscete, però voi dovete essere così bravi da riconoscere. Ci siamo mai chiesti, noi ce lo chiediamo sempre qualche volta, che cosa siamo? Io che cosa sono? Io mangio, dormo, vivo, sono in questo simile a un qualsiasi animale. Anche l'animale mangia, dorme, vive. Erano cose basilari che sembrava impossibile che la gente non sapesse, ma non c'era Wikipedia, non c'era la televisione con tanti canali, e nelle edicole c'erano pochissimi giornali. I libri per molti italiani erano quelli che dava il patronato scolastico a scuola, non è che nelle case ci fossero libri. Ancora non era arrivata l'epoca delle enciclopedie, quindi era difficilissimo capire e sapere qualcosa che non appartenesse alla propria esperienza personale. Avete sentito nella fiction, c'è il bambino che arriva che viveva nelle baracche, c'erano ancora i baraccati, a Roma c'erano i baraccati, esistono italiani che vivevano nelle baracche. I flussi migratori del dopoguerra, ne abbiamo parlato una volta con una assistente sociale tra le prime in Italia, si accampavano dentro le arcate degli acquedotti romani, li costruivano le prime case perché facevano i muratori. È qualcosa di equivalente a quelli che oggi sono gli immigrati che vengono da paesi lontani, che vivono in baracche, nei sottoscala, nei tunnel della metropolitana, lungo gli argini del Tevere qui a Roma. A scuola venivano ragazzi che venivano da genitori che lavoravano la terra. Ricordo, nella mia classe c'erano figli di contadini, venivano a volte senza scarpe o avevano solo un paio di scarpe, erano le stesse scarpe con cui pestavano, naturalmente, come dice nella fiction, lo sterco degli animali che era il loro habitat quotidiano. Venivano dopo aver munto le vacche, venivano a scuola e poi tornavano magari a dar da mangiare alle galline. Questa era la realtà rurale del quotidiano Italia allora. Ma cosa c'ha a che fare questo con l'attualità, con la contemporaneità? Perché questo grande successo il maestro Manzi? Franco, buongiorno. Sì, dunque io volevo portare la mia piccola esperienza, ma più che altro io ero figlio di immigrati. Quanti anni ha lei, Franco, per capire? 65, perciò ho fatto calamaio, maestro maschio, per fortuna, che era un tesoro, no? Tutto a posto, no? Ci portava, quando andavamo in bagno dovevamo andare in fila, no? poi uno di là, uno di qua, uno di là. Ecco, ma io vorrei domanda agli ascoltatori, anche voi. Cioè, visto che una volta la RAI insegnava qualcosa, sia pure con tante altre cose sdolcinate, Panemer Circenses, Studio 1, Canzonissima, però qualcosa insegnava, documentari, concerti. Adesso per il 99,9 periodico trasmette roba molto violenta, molto diseducativa, soprattutto per i bambini. Io ho due figli, adesso sono diventato nonno. Io mi domando come fanno le famiglie a pagare ancora il canone della, quando si sa che quella RAI continua a cose atroci ai bambini e qualcuno se la prende con Franco, Berlusconi. Franco, no, fai un attimo, Franco. Prendo atto di quello che dice lei, non è esattamente la domanda che ho fatto. Lei ce l'ha in questo momento, ha un modello di servizio pubblico legato a una sorta di missione educatrice, per cui è giustificato il pagamento del canone, quindi è giusto quello che dice. Non sono molto, io ho un punto di vista un po' diverso, che in questo momento la RAI faccia male ai bambini. Non è questo comunque il problema. Il problema è proprio l'idea della figura del maestro, perché oggi ha un successo enorme la figura di un maestro che andrebbe celebrato nelle scuole, bisognerebbe mettere la sua immagine ovunque, dovrebbero ricordarselo i politici attuali, ma che nulla ha a che fare con il paese attuale. O il paese attuale è fondato fondamentalmente da persone come lei, Franco, che è ancora il rimpianto di una didattica antica, di una grande mamma RAI che ci aiuta tutti, ci tiene per mano, ma oggi il mondo è un po' diverso. Oggi i ragazzi non poter scegliere, non avere un spettro un po' più vasto, non ci devono essere i filtri per le cose che non debbono vedere, non dobbiamo essere spaventati, bisogna dargli modo di vedere, di comprendere, decodificare, perché hanno strumenti di conoscenza molto personali, individuali e senza filtri, se non quelli degli strumenti vengono dati dalle persone adulte. Le persone dovrebbero aver capito qualcosa più di lui, ma questo significa che abbiamo bisogno di maestri. Maria, Rita, buongiorno. Pronto? Vediamo, buongiorno. Se avviciniamo un po' più alla mia domanda. Perché abbiamo bisogno di un maestro? Allora, io la ho l'eco nel telefono, quindi non riesco a parlare bene. Parli, cerchi di non farci caso. Va bene. Allora, il problema è questo. Oggi come oggi è vero che c'è questa Italia che tenta in qualche modo di svecchiarsi. L'abbiamo visto anche adesso con le nuove vicende politiche. Però secondo me. E dov'è lo svecchiamento? Dov'è lo svecchiamento nelle nuove vicende politiche, secondo lei? Allora, il giovane premier, i ministri. È anagrafico lo svecchiamento, perché tolta diciamo l'età, non mi sembra che i comportamenti siano differenti da quelli passati. Bisogno. Di punti di riferimento, come può essere il vecchio maestro che dava anche una certa sicurezza, una rassicurazione, perché se lei considera oggi come oggi anche delle persone, dei lavoratori, delle persone che prima facevano un certo tipo di lavoro, magistrati, alcune persone che erano dei punti di riferimento e che non venivano messi in discussione, ma non perché non ci fossero gli strumenti per metterli in discussione, perché in qualche modo ci si affidava. Oggi invece io ritengo che ci sia una certa diffidenza nei confronti. Guardi, la sento malissimo, devo interrompere anche perché dobbiamo da qui a un istante dare le informazioni del traffico, poi mi sembra di sintetizzare il suo messaggio. Comunque sia, abbiamo bisogno di punti di riferimento certi, e la certezza la dà soltanto l'autorevolezza, lo dà l'investitura, il fatto che sia maestro. Quindi oggi abbiamo bisogno di maestri. Melog, cronache meridiane. Nessuno si era posto il problema che la televisione, io che non la conoscevo, però pensavo che la televisione è un'immagine in movimento, ossia se io mi fermo per 20 minuti addormento tutti, se voglio tenerli svegli devo fare un qualcosa che si muove, allora o metto le ballerine, ma non era degno della scuola, o faccio qualsiasi altra cosa, però non rientrava nella scuola, l'unica cosa era disegnare. Allora bastava schizzare qualcosa, meglio che fosse stato incomprensibile all'inizio e poi si capiva alla fine, in maniera che quello stava lì, guardava e intanto mi doveva sentire. Voi qui avete potuto leggerle, perché? Perché io ho 800 24 00 24, stiamo parlando del grande dilemma che ci si pone in questi giorni: come mai gli italiani preferiscono la figura del maestro Manzi a tutto ciò che c'è di nuovo, di fugace, di irrazionale, di asfaltatore del passato. Sembra che ritorniamo a dei vecchi modelli, modelli antichi. Il maestro che ci prende per mano e ci insegna i dettami della comunicazione. Guardate che Alberto Manzi non va visto come un maestro passatista, come quelle figure specchiate e terrificanti del del libro Cuore. No, era molto avanti per i suoi tempi, aveva girato il mondo, era una persona che si era fatto idee di cosa girasse nel mondo, era stato in America Latina molto tempo, aveva capito il medium, era andato in televisione e mentre i burocrati della RAI avevano scritto un testo uguale per tutti, lo facevano leggere per selezionare il maestro dell'italiano, io disse: ma scusate, Patrick ha scritto questa cosa, è un cretino. Seconda cosa, io disegno, datemi dei fogli, disegno. Se la televisione è fatta di immagini, e ancora non esisteva, non l'aveva vista la televisione, io devo spiegare con immagini sequenziali. E lo presero, ma era molto avanti, era come oggi fosse un guru del 2.0 rispetto alle mentalità del tempo. Negli anni 80 si ribellò al Ministero della Pubblica Istruzione perché voleva che facesse delle schede di valutazione. Dice: io non faccio schede di valutazione, perché oggi do un giudizio sul ragazzo, poi gli anni passano, questo giudizio rimarrà sempre legato a questo ragazzo, perché devo bollarlo? Guardate quanto è attuale e quanto assomiglia ai discorsi che oggi si fanno sull'oblio digitale, sulla necessità comunque che la rete non lasci delle cose che non vogliamo appiccicare alla nostra biografia. La domanda che ci facciamo è: ma abbiamo bisogno di un maestro? Che tipo di maestro abbiamo bisogno? Luciano. Sì, volevo semplicemente dire una cosa. Mi è piaciuto molto questo sceneggiato perché ha introdotto, o perlomeno ha risvegliato, qualcosa di noi che temo si sia un po' perso. Mi riferisco a questa possibilità che spesso, che oggi viene un po' poco evidenziata, di intravedere l'aspetto un po' positivo delle cose. Nello sceneggiato si è visto molto bene che il maestro, da ogni cosa che attirava o che poteva attirare l'attenzione degli allievi, dei bambini, dei ragazzi che erano in riformatorio, tendeva a dare un aspetto... Sì, anche per sé, ecco, altra cosa che non ho detto, si è occupato molto di ragazzi speciali, aveva un'attenzione a delicatezza estrema per quelli che ancora vengono considerati dei rifiuti della società, dei vuoti a perdere, e lui aveva attenzione per questo, quindi era molto avanti per i tempi. Lei comunque dice: Luciano, il maestro Manzi dava un'immagine positiva, costruttiva, non era un disfattista, non distruggeva ma costruiva. Appunto, ma erano altri anni, erano gli anni in cui tutto il paese andava verso un avvenire che sembrava essere l'ottimismo impersonificato. Mariano. Buongiorno, Tony. Sì. Io la ringrazio per avermi fatto tornare bambino quando mi ha citato che lei si guardava le trasmissioni quando non stava bene. Stessa cosa facevo io, anche se ho qualche anno più di lei. Io prometto, non ho la televisione, perciò non ho visto lo sceneggiato, però ricordo di aver visto in vecchie trasmissioni, quando il maestro andava in queste case in campagna, insegnava a queste persone ottantenni che non sapevano né leggere né scrivere, con un'estrema umiltà. Ecco, una cosa che adesso manca, secondo me, è la voglia di rimparare. Allora abbiamo bisogno, anzitutto, di maestri che diano immagini positive, ottimistiche, certo, e maestri che non se la tirino, quindi estrema umiltà. Perfetto, Giuliana. Aggiungiamo altre caratteristiche al maestro ideale, visto che abbiamo capito che di maestri abbiamo bisogno. Giuliana, c'è? Buongiorno. Sì. Buongiorno Gianluca. Sì. Allora, io l'emozione... Lasci perdere, scusi, no, l'emozione no. Voglio sapere caratteristiche del maestro, se no non facciamo in tempo a definire qualcosa. La caratteristica, secondo me, del maestro, al di là della sua positività e dell'approccio, è la di comunicazione tra le persone, cioè lui ha risvegliato e questo... Lei, però, purtroppo la linea telefonica non le permette di comunicare. Insegna a comunicare, ma insegna a comunicare, scusate, i nostri politici ipertwittanti non sono dei maestri di comunicazione. Franco. Sì, pronto. Sì, come la pensa lei? Caratteristiche del maestro che vorremmo. Io ho 64 anni e mi ricordo da bambino che ho visto un paio di due o tre volte il maestro Manzi, lo ricordo molto bene, e credo che mi ha stupito questo successo che ha avuto. Questo mi aspettavo tutto il contrario. E come se lo spiega? Vediamo se dà una spiegazione. Me lo spiego più o meno come quello che ha detto lei, perché la gente ha bisogno di una persona semplice che butti via tutta questa ipertecnologia, tutte queste cose, e che si ritorni un po' alla semplicità. Allora, questo sarebbe una follia, diciamo, il ritorno ai vecchi antichi tempi in cui si scriveva con la penna e si insegna, diciamo, non è la soluzione, secondo me, che ci si aspetta in questo momento, un ritorno al passato. Bisogna capire, secondo me, perché abbiamo bisogno di qualcosa di semplice, di antico, perché è molto pericoloso, perché oggi il primo che si presenta dice: io sono il buon maestro, tutti gli vanno dietro, io vi riporto ai tempi beati in cui eravamo tutti felici, tutti gli vanno dietro. Io temo molto l'idea della necessità del buon maestro. Franco ha detto Francesco. Eccomi qua. Sì. Ritorno sul fatto che ci vuole un buon maestro e abbiamo bisogno di un buon maestro. Andando indietro col pensiero, sono del 52, ricordo che quando si entrava in classe ci si alzava in piedi per rispetto verso il maestro e diventava un principio per il rispetto delle istituzioni. Questo andazzo con l'andare degli anni si è perso, oggi i ragazzini danno del tuo ai maestri alle scuole elementari e poi succede quel che succede andando avanti. Però scusi Francesco, io prendo atto di quello che dici, ma più sento i miei ascoltatori, poi quasi tutti i miei coetanei, più mi spavento. Il rispetto delle istituzioni, quell'antica e impeccabile buona educazione, tutti si alzavano in piedi, ma è un modello terrificante quello che si prende. Se dietro il maestro Manzi, voi vi aspettate, bambini tutti inquadrati che vanno tutti a fare la pipì in fila al bagno, come ha detto l'ascoltatore, che si alzano in piedi per il rispetto verso il maestro, che il maestro deve dare immagini positive, che il maestro deve essere sempre ispirato al sorriso in bocca, beh, è un'irrealtà. Il primo che si presenterà con una bella giacchettina tranquilla, con un viso sorridente, dirà: io sono il buon maestro. Ma sembra siamo già passati su cose del genere. Conquista l'Italia. Ma come, non è l'Italia in questo momento dei giovani e delle persone che rompono gli schemi? Perché cerchiamo il maestro Manzi? Roberto. Ecco, guarda, io ho un'esperienza un po' particolare da riferire. Perché noi venimmo dal 60 dall'America, io sono nato nel 53 e ho fatto le scuole elementari in America, anzi dai gesuiti francesi, che c'era l'istituto Champagnat che era anche rigoroso, c'erano le lezioni corporali, avevano una macchinetta che schiacciava l'orecchio per punizione. No, com'è questa storia? Lei è andata a scuola dei gesuiti, i gesuiti avevano una macchinetta che schiacciava le orecchie, com'è fatta? Lobo dell'orecchio, se tu ti comportavi male ti davano una specie di pizzicotto che ti faceva un male incredibile. Con lo stringe orecchie, solo sull'orecchio lo applicavano? No, io sapevo che c'erano anche bambini che se si comportavano male si dovevano mettere in ginocchio dietro la lavagna. Sì, anche io sono stato bastonato dalla maestra, succedeva quest'anno. Come? Anche a me davano le bacchettate sulle mani, sopra o sotto. Io questo parlo in America, in Venezuela. Vabbè, sempre gesuiti erano comunque, una grande compagnia. Poi sono venuto in Italia e ho dovuto ricominciare da capo perché io ho cominciato a parlare in italiano sulla nave a Genova. E quindi ha trovato il maestro Manzi, l'ha imparato a scrivere col maestro Manzi. Ecco, qui è la terza lezione che ho preso. Cioè, ho visto quindi la scuola in America, poi ho visto la scuola elementare in Italia, e poi ho visto. Che mi faceva ridere nei confronti di quella americana. Però la sigla dice che l'altra volta è più sintetico, però è interessante, lei è passato dallo stringe orecchie dei gesuiti al maestro Manzi, quindi figuriamoci. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti.